Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Regole sul cibo, salute, sicurezza ambientale, barriere che abbiamo trovato il modo di bypassare. Prendete il marchio del Made in Italy, per esempio. Uno dei più prestigiosi che abbiamo e dei più vendibili. Affettati, formaggi, olio, pasta, vino. 4/5 degli alimenti mondiali che espongono questo falso marchio sono nostri. Un volume di affari da centinaia di milioni di dollari ogni anno. Buongiorno, è il monologo tratto da Something Good, il film di Luca Barbaresti, di Barbaresti che è nei cinema in questi giorni ed è un film sulla contraffazione alimentare e che riguarda la nostra salute e la tutela del Made in Italy. Ormai è accertato che moltissimi tumori derivano da un'alimentazione adulterata e la contraffazione coinvolge un giro d'affari delle agromafie valutato dalla Coldiretti in 13 miliardi di euro. Voi fate attenzione a quello che mangiate, Mario? Ti rispondo alla romana. Ammazzo. E tu, Pietrangelo? Beh, io sono fatalista, quindi già l'idea stessa di lavare la frutta mi turba, perché sono abituato alla campagna dove stacco e mangio. Ah, vabbè, quindi... tutte... pieno di antichi ritrogamici. No, ma quale? Tutte cose sarbagie. Raffaele Guariniello, procuratore di Torino, buongiorno. Nel primo semestre del 2013 sono state sequestrate 1.800.000 chili di alimenti e 951.000 confezioni. Quindi il film non è che si allontana molto dalla realtà, mi pare, no? Buongiorno. Buongiorno. In effetti, tra le frodi commerciali, gli attentati alla salute, ci stanno creando problemi a non finire in questi ultimissimi anni. La fiducia che ho sentito esprimere pochi secondi fa. Molto ottimista. Naturalmente uno può anche... Ognuno decide come suicidarsi, sì, ha ragione. Secondo me invece ormai la consapevolezza della gente è molto aumentata, per fortuna. Ecco, no? Ma adesso, procuratore, adesso che le barriere doganali, gli scambi sono globali, come si possono controllare le merci con qualche sicurezza? Ma purtroppo la globalizzazione ci ha portato dei grandi problemi, perché poi ci arrivano merci, alimenti dai paesi più strani, no? Non solo certo. Dall'Europa, ma anche, mettiamo, dalla Cina, no? La Cina ci crea grandi problemi, anche perché poi per colpire i responsabili è complicato. A me è capitato di fare un procedimento a carico di un cinese e abbiamo dovuto fargli recapitare un invito a eleggere domicili in Italia e per farlo dobbiamo scrivere all'autorità giudiziaria cinese. Non è semplice, quindi. No, la procura di Pechino ci ha risposto che non ci pensava proprio. Addirittura proprio, cioè proprio è una globalizzazione a senso unico in questo senso. No. Infatti le barriere ci sono, queste barriere qui ci sono per i poliziotti, per i carabinieri, per i magistrati, ma non per i criminali. Senta, lei propone infatti una procura nazionale per la sicurezza alimentare sul modello, mi sembra, di quella francese del gruppo della salute, cioè un po' come l'antimafia, una cosa del genere? No, molto di più, perché l'antimafia ha una funzione di coordinamento e basta, no? Invece qui c'è bisogno di azione, di fare delle indagini di rete. Purtroppo noi abbiamo un paese in cui ci sono oltre 120 procure della Repubblica, molte delle quali con 2, 3, 4 magistrati bravissimi, ma che non possono specializzarsi, certo, in una materia troppo frammentato, troppo frammentato. Troppo frammentato, per cui i problemi non è che si pongano in questa sola zona o in un'altra sola zona, si pongono un po' dappertutto e ci vorrebbe una regia. E questo è quello che propone, mi scusi un attimo, io ricordo il numero 800 24 00 24 per chi vuole chiamare, l'SMS 349 238 6666. Ecco, lei a Torino l'ha fatta questo gruppo della salute, l'ha fatto? Ah beh sì, e funziona? Beh sì, certo che funziona, perché sono tutti magistrati specializzati, quindi non è che fanno un processo e basta. Certo. Funziona però naturalmente solo nella nostra zona. Quindi mangiano tranquilli solo i torinesi? Quello adesso non esageriamo la nostra capacità, però è certo che è molto facile fare i processi a carico di questo o quel negoziante, ma invece quello che bisognerebbe fare è capire chi è che stabilisce e dispone la politica della sicurezza alimentare, no? Naturale. E quindi bisogna trovare le responsabilità a livello, andare a cercarle nelle stanze dei consigli di amministrazione. E quindi dal micro al macro non è semplicissimo, insomma, no, se certo. Uno è solo in questo senso il gruppo coordinato avrebbe questa funzione di poter concentrare l'azione. Sì, perché pensi che, non so, per esempio per lei ricorderà le mozzarelle blu. Sì, certo, purtroppo. Beh, ci sono state procure che hanno archiviato, procure che hanno proceduto. Questo è gravissimo. Ecco, ma allora dov'è meglio comprare le cose che mangiamo? Adesso, al di là di Buttafuoco, che le prende direttamente dall'albero, è fortunatissimo. Ma noi normali? Anche se a prendere dall'albero, bisogna vedere un bel rischio, bisogna vedere se è trattato con certi prodotti. Quindi, no, che vede il consumatore, è triste dirlo, ma il consumatore, il cittadino, sì, è disarmato. Certo. Ma insomma, tra il mercato sotto casa e il supermercato bisogna porsi il problema dell'alternativa oppure no? Ma sì, lì se tu conosci bene il venditore, allora se sei un amico. Sì. Però e quindi non proprio credo bisogna che si possa impostare così. No, il discorso, non credo proprio. È lì che è importante che funzioni l'istituzione, certo, cioè a protezione dei cittadini. 800 24 00 24. Comunque, chi vuole informazioni e fare segnalazioni in tema alimentare può chiamare un numero verde per le segnalazioni, che è 800 02 03 20. È così, no? Sì, può anche rivolgersi poi ai vari organi, tipo INAS, la Guardia di Finanza, la Forestale. Di organi ce ne sono. Di vigilanza ce ne sono, anzi non sono coordinati, certo, questo lei dice, sotto un certo profilo persino troppi, troppi ma soprattutto l'autorità giudiziaria che non fa ancora tutto quello che dovrebbe fare, perché ci sono zone quando lei dice che ci sono procure che sulle mozzarelle blu qualcuna archivia e qualcuna invece procede, mi sembra che la distanza sia infinita. Sì, ci sono zone poi in cui questi processi proprio non si fanno. Tipo che zone? Ma guardi, un po' dappertutto in Italia, ma ci sono certe zone anche del sud in cui le procure sono assediate dai processi di criminalità organizzata, figurarsi se hanno tempo, certo, modo e la specializzazione per fare questo tipo di processi. Senta questa altra provocazione che ci viene dal film di Barbareschi. In finanza, per aumentare la liquidità, si vendono i debiti sotto forma di azioni, tossiche naturalmente, che valgono meno di carta straccia. Cioè, in parole povere? I nostri rivali vendono latte scaduto con finte proteine del latte. Noi venderemo latte finto con finte proteine del latte. È piuttosto semplice e costa meno. Che vuol dire finto? Qualunque cosa sembri latte in polvere. Calce, borotalco, gesso. Qualsiasi cosa gli assomigli andrà bene, purché non abbia una data di scadenza e costi meno. Insomma, procuratore, siamo arrivati al latte senza latte, eh? Ma questo, sai, la fantasia non ha limiti. La fantasia è molto sviluppata, però appunto credo che noi non dobbiamo arrenderci. Assolutamente, certo. Soprattutto, abbiamo qui lei perché è uno che non si arrende mai. No, non bisogna mai demordere, perché è chiaro che l'abbiamo visto con l'Eternit in frodi, azione. Le frodi commerciali, gli attentati alla salute sono all'ordine del giorno. Però ecco, non credo che si possa dire che sono molto di più adesso di una volta. Io credo che solo che se ne parla, questo è il vantaggio. Ecco, ecco, A proposito di cose assurde, dicevamo latte senza latte, lei ha caccia del Cafodos, se non mi sbaglio, che è uno spray che si sospetta venga usato sui banchi del pesce, serve a ringiovanire il pescato. Quindi dal latte senza latte al pesce senza pesce, più o meno siamo arrivati lì? Ah sì, lì è proprio un caso persino drammatico, perché lei pensi che è una sostanza questa che non lascia nessuna traccia, quindi uno non si accorge proprio di niente, nemmeno se sottoponi il pesce all'analisi trovi questa sostanza. Quindi è invisibile. Se tu hai un pesce marcio diventa giovane, però ad esempio l'istamina... A vederlo, diventa giovane a vederlo, poi sì, naturalmente... bellissimo, cioè terribile. I più grandi esperti a vedere il pesce freddo... Quindi avvelenamento sicuro lì. Rimangono ingannati, per cui lì bisogna addirittura, noi abbiamo dato questi incarichi, bisogna addirittura andare a vedere sulle imbarcazioni. Accidenti, prende, certo, perché può essere messo addirittura lì. Ecco, procuratore, abbiamo Giuliano da Milano, un secondo. Giuliano. Sì. Al volo. Niente, io volevo proporre una legge al Parlamento per cui i due crimini dell'adulterazione alimentare e dell'inquinamento venissero equiparati ad attentato alla salute pubblica, attentato omicidio plurimo, e puniti senza rito abbreviato con l'ergastolo. Va bene, qui abbiamo il procuratore, vediamo se recepisce la sua proposta. Ma, che mi sembra molto radicale, ma insomma... Bisogna rendersi conto che di leggi, anche molto severe, ce ne abbiamo sono. Molte. Il problema è di applicarle, perché se queste leggi rimangono solo scritte sulla carta, non servono a nulla. Il nostro paese è un paese che si caratterizza proprio per il fatto che ha delle splendide leggi, però scritte sulla carta. Poi ci vuole... Leggi bellissime applicate secondo il bon plaisir du prince, come sta capitando, mi sembra. Abbiamo tutti gli strumenti possibili e immaginabili. Io devo dirle, non ho bisogno dell'ergastolo, perché le leggi che ci sono già sono adeguate, sufficienti. Però se non ci sono gli strumenti per renderle realmente incisive, quindi occorre che ci siano ispettori adeguati, professionalmente preparati, bisogna evitare confusioni tra l'attività di vigilanza e l'attività di consulenza. Naturale. Quando fai le ispezioni non devono essere preavvisate. Ce ne sono, ce n'è di lavoro, e questo è appunto la ragione per cui ci vorrebbe il gruppo di salute. Senta, le etichette però ci vorrebbero anche sui terreni. Senta i telegiornali di ieri. Nella terra dei fuochi, quella tra Napoli e Caserta, avvelenata dai rifiuti, 13 pozzi e 15 fondi agricoli sono stati sequestrati, in particolare nel comune di Caivano. Dalle analisi sui campioni prelevati, infatti, è emerso un superamento dei limiti di contaminazione delle acque sotterranee per la presenza di manganese, fino a 20 volte il limite, fluoruri, arsenico e altre sostanze considerate altamente tossiche e nocive per l'ambiente e la salute. Sono state sequestrate anche le coltivazioni che crescevano sui campi soprastanti. Mario, senti, per non esagerare con l'allarmismo, perché comincio a spaventarmi io. Tu sei sardo, sì. In Sardegna arrivate più o meno tutti a 100 anni, è il luogo dove c'è la longevità, sì, più diffusa. Non è tipico delle isole, sì. Sai, no? Perché... E che fate? Perché? Noi, com'è? C'è tutta una teoria sui polifenoli del cannonau. Adesso qualcuno ci può anche ridere sopra, però è così. Il tema della longevità è legato al fatto che si è isolani e quindi meno esposti, diciamo, a contaminazioni varie, di vario tipo genetico e così via. Ecco. E naturalmente anche alimentare, anche cioè alimentare. La bontà delle cose che si consumano è superiore, non ci sono dubbi. Pietrangelo, dobbiamo temere anche per i cannoli. L'altro isolano. L'altro isolano, qui per fortuna. No, i cannoli che sopravvive. No, però a proposito di mozzarella, mi è venuto in mente che una delle scene più applaudite del film di Checco Zalone è quando lui prende la parola e, a proposito della mozzarella, dice: ma sta benedetta mozzarella deve segnare nell'etichetta. e dove è stata confezionata e quando è stata confezionata e con quale latte è stato confezionato e quanto tempo il latte è stato messo a preparare e dove, come e quando, e mangi la mozzarella. No, che non sia blu, però, ecco, io volevo insistere perché il procuratore ci ha dato veramente delle indicazioni molto precise. Posso fare una domanda, Guarinieri? Sì, certo, naturale. Procuratore, buongiorno, sono Secchi. Senta, ma l'esempio della Food and Drug Administration americana è possibile replicarlo in Italia, secondo lei, oppure è un modello che non potrebbe funzionare qua? Ma noi abbiamo le strutture che possono essere come quella, come l'FDA, però naturalmente bisogna che, vede, la pubblica amministrazione bisogna che cominci a funzionare molto di più. Non si può pensare che tutti i problemi li risolva la magistratura, no? Oggi noi siamo in una situazione in cui se non interviene il magistrato non si riesce ad andare avanti, ma questo non va bene. Certo che la no. pubblica amministrazione deve sapersi, deve essere capace di intervenire, incisiva, soprattutto non essere condizionata dai tanti interessi che purtroppo ci sono in questo settore. Ecco, io la ringrazio moltissimo, procuratore, spero che questa esperienza del modello francese del gruppo di salute riesca a fare il suo percorso. La rinviteremo presto, mi sa. La ringrazio tanto, molto, molto gentile. Ecco, venerdì scorso la regione Campania e le capitanerie, a proposito del discorso che facevamo con i telegiornali e con le Terre del Fuoco, hanno firmato una convenzione per identificare le criticità ambientali e combattere naturalmente i reati. Al telefono abbiamo l'ammiraglio Antonio Basile. Ecco, userete gli aerei ATR-24 per individuare anche i roghi dei rifiuti nella Terra dei Fuochi? È così? Sì, ecco, anche. Ma quando si alzerà in volo il primo aereo? E questo entro quest'anno, entro la fine di quest'anno. Ecco, e che tipo di rilevazioni è in grado di fare questo ATR-42? La TR-42 è capace di fare molteplici rilevamenti attraverso un semplice volo, addirittura di poter scoprire discontinuità nel terreno fino a quasi un metro di profondità. Ah, e quindi dove andare a cercare magari delle scorie, insomma? Dove andare a sospettare la possibilità che vi siano delle scorie. Ma voi cosa vi aspettate da un'operazione del genere? Noi ci aspettiamo tanto, soprattutto per quello che è il risanamento. Non è una attività che viene finalizzata solo ed esclusivamente alla repressione, che è necessario comunque sia portata avanti per poter avere esatta contezza di quello, certo, che è prima fate questo e poi dopo sperate di dare una mano al risanamento, insomma. Beh, la finalità che quella, ovviamente, si prefigge alla regione è quella di avere un quadro di insieme di tutta la situazione, e questi dati saranno suscettibili poi di essere adeguatamente sfruttati nell'ambito di azioni di polizia giudiziaria che inevitabilmente dovranno essere portate avanti. Ecco, ma su quali aree esattamente vi concentrate? Noi ci concentriamo su tutta l'area regionale, soprattutto per quello che concerne la fascia litoranea, e quindi i golfi che si succedono da quello di Gaeta fino a quello di Policastro giù, e poi la ricognizione di tutti i bacini idrogeologici. Però se l'attività di monitoraggio interesserà prevalentemente, come mi ha detto, le aree costiere di Gaeta, Pozzuoli, Napoli, Salerno, Sapri, la Terra dei Fuochi però è tutta nell'entroterra, moniterete anche quella? È chiaro, è chiaro che noi estenderemo la nostra attività delle ricognizioni aeree che porteranno dei risultati anche in quegli altri versanti, sia sulla Terra dei Fuochi, intesa come accensione di fuochi che sono finalizzati a determinate attività che poi risultano inquinanti, e poi ovviamente anche su quello che può essere una zona in cui si sospetta che ci possano essere delle discariche abusive. Però è previsto anche l'intervento dei droni, se non mi sbaglio, no? È una misura che fa parte del cosiddetto protocollo investigativo che andrà a vararsi di qui a breve. Ecco, ma da dove vengono comandati questi droni? I droni potranno anche essere comandati da laboratori mobili che agiranno in una prima fase diciamo congiuntamente con l'aereo, perché laddove l'aereo vedesse già direttamente delle attività che non sono regolari, tramite radio potrà contattare il laboratorio mobile offrendo le coordinate, ecco, ma per mi spiega in campagna immediata. Sì, ma mi spiega però, ammiraglio, cosa hanno in più i droni, in modo concreto, semplice? E hanno la possibilità di ricognizioni molto più vicine, diciamo, alla terra, e con la possibilità anche di angolazioni che possono consentire le riprese di zone che non sono perfettamente visionabili dalla quota dell'aereo. Insomma, una volta che avete individuato le criticità, chi interviene? Interviene immediatamente la Guardia Costiera per quello che è ciò di sua competenza. Sul mare, ma all'interno? Ma anche all'interno. Noi abbiamo fatto delle azioni nei confronti di aziende zootecniche che sembravano così lontane da quelli che sono i nostri campi di attività, anche perché poi qualsiasi attività può avere una ripercussione sul corpo idrico su cui noi abbiamo competenza totale. Senta, le faccio un'ultima domanda, ammiraglio. Quanto durerà questa campagna di monitoraggio? Questa campagna di monitoraggio durerà un anno e potrà essere rinnovata alla scadenza. Bene, grazie ammiraglio. Mix 24. Bevete più latte, il latte fa bene, il latte conviene a tutte le età. Bevete più latte, prodotto italiano, rimedio sovrano per tutte le età. Bevete più latte, bevete più latte, bevete più latte. Vabbè, Pietrangelo, perché questa canzone mi sembra una domanda inutile. No, invece c'è un'allusione, perché questa è la versione aggiornata di una celebre canzone di Nino Rota con le parole di Federico Fellini. Immaginate che c'era il povero Antonio, le tentazioni del povero Antonio, del signor Antonio, cioè un Peppino De Filippo, sovrastato da una gigantesca Anita Ekberg. E quindi quella sovrastava veramente. È un'idea della contraffazione del latte sotto metafora. Ah, beh, allora noi abbiamo Giuseppe. Giuseppe da Belluno, che credo che stia sul latte. Giuseppe. Sì, buongiorno. Buongiorno. Per la trasmissione. Grazie. Allora, io ho munto le vacche finché avevo 25 anni, quindi so bene di cosa parlo. Fino a una decina d'anni fa c'erano delle razze, tipo la razza bruna, che facevano più qualità e meno latte, con più proteine, più grassi. E poi cos'è capitato? Dopo cos'è capitato? Dopo è capitato che, siccome la qualità non viene pagata, praticamente già dal principio, invece di tenere queste razze, prendono le frisone, quelle che voi vedete per televisione bianche e nere. No, quelle sono degli animali che fanno un latte meno di qualità, latte e meno più qualità. Quindi stiamo arrivando al latte senza latte, come diceva il film? Esatto, però la colpa, io vorrei dire, è del consumatore, primo, e della politica, perché se il latte è già al supermercato, i supermercati si uniscono in un unico gruppo, prendono da un unico fornitore, tirano il prezzo, poi quando arriva il consumatore... Vabbè, magari... abbiamo capito il ciclo. No, questa è una cosa importantissima. Quando arriva il consumatore, io di questa cosa sono proprio sfiduciato, con il telefonino da 500 euro... Sì, e allora che cosa fa il consumatore col telefonino da 500 euro? Prende il latte da 60 centesimi. Ah, preferisce il telefonino al latte. Va bene. Ecco, grazie. Testimonianza abbastanza drammatica, ma in realtà le leggi ci sono e sono durissime. Articolo 1. Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione e il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione, A tal fine, l'autorità sanitaria può procedere in qualunque momento e a mezzo dei competenti organi ed uffici ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può altresì procedere al sequestro delle merci e, ove necessario, alla loro distruzione. Pietrangelo, sembrano le grida manzoniane, mi pare, sì, queste però... leggi. Terribili, precisissime. Terribili, peccato, precise. Come diceva Guariniello, non si applicano. Però c'è una casistica di sequestri, insomma di azioni, e soprattutto nelle realtà più disastrate, in quelle che un tempo erano floride in tema di agricoltura, che in realtà danno anche questo senso di una legge onnipresente e che spesso non viene manco decifrato. Io ho incontrato... È difficile da capire questa legge, difficile da capire, però fa di tutto. Ho incontrato, cioè, un magistrato regolato, che mi ha spiegato come e quanto tempo perde persino per le cause intentate per chi brucia gli arbusti. Cioè c'è tanto di quel groviglio che rende ostacoli a un mondo già distrutto. È quello che diceva Guariniello, infatti. Distrutto qual è quello dell'agricoltura. Senti, Sardegna è uguale, Sì. Sì, perché non sempre lo sviluppo è progresso. Questo è il punto fondamentale. Cioè, che è un po' la testimonianza del nostro ascoltatore, il telefono da 500 euro fosse il latte per i suoi bambini. Pasolini diceva, ci stiamo sviluppando ma non stiamo progredendo. Penso che, insomma, su ogni tanto cose, una riflessione, sì. E sentiamo che cosa bolle in pentola. Sigla. Rallenta anche la grande Germania, caro Minoli, cari ascoltatori. E perde, rallenta dello 0,4% il PIL teutonico nel terzo trimestre. Ma la realtà è che per punti decimali, eccetera, sta rallentando tutta Europa. Cioè, Europa rallenta. L'America, sì. 1.300.000 nuovi posti di lavoro. Più è solo due... colpa del rapporto fra il dollaro e l'euro? No, sì, c'è l'euro forte, può darsi anche che stia dando dei contraccolpi. La realtà è che noi la ripresa ce l'abbiamo e ce l'avremo debolissima, se ce l'avremo. Tra lo 0 e l'1% del 2014, sai cosa significa? Niente. Niente, è un pannicello caldo su una ferita enorme. Quindi le chiacchiere sulla ripresa bisogna prendere con molta, come con sì, le pinze. Con le pinze, con le pinze. Con gli industriali mi pare che questo l'abbiano già capito perché lo vedono gli ordinativi. Il presidente di Confindustria dice che siamo a uno schifo. Pietrangelo, oggi... Salamini in forma di falchettini? No, allora, fratelli, un nuovo marchio, fratelli Falchetti, Luca e Andrea Zappacosta, i due leader dei Baby Falchi, ieri sono stati a cena da Silvio Berlusconi e sono stati fotografati, ritratti, filmati, raccontati, immortalati con dei fiori che immagino fossero destinati, non crisantemi. No, beh, quello vedremo domani, dopo domani. Dobbiamo aspettare due giorni per sapere come va a finire. Dei fiori che probabilmente sono stati destinati al capo dei Falchi, a Daniela Santanchè, che è la padrona di casa della sede. Però la padrona di casa è un'altra. No, ma quelli si sono visti nella sede di Forza Italia, quella dove c'è solo lei. Ecco. Questa maschia gioventù però cosa farà? Non lo so se farà una rivoluzione, non so se farà la rinascita, piuttosto, le briciole di quello che fu l'impero berlusconiano. Le briciole. Mario. Ma non se ne può più. Ma parliamo di cose serie. Questo è l'inno imperiale russo. Dovreste vedere la faccia di Buttafuoco in questo momento. Sta esplodendo di gioia. La Santa Madre Russia. È la Santa Madre Chiesa russa. Perché ci sono anche le voci. Romana, anche la Santa Madre Chiesa Romana. Romana. Citiamo Papa Francesco. L'ultima versione è sempre quella migliore, siamo pur sempre la terza Roma. Il Papa dovrebbe incontrare il Patriarca russo, non si sa ancora esattamente quando né il luogo. Anche se ci sono dei candidati, Vienna, l'Ungheria oppure Bari. Dicono di là, perché Bari? San Nicola. Solo che, come diceva Pietrangelo giustamente, a San Nicola. Il padrone di casa sarebbe Kirill. Putin. Loro sono molto legati. Sono legati. Sì, molto. Cosa, alza il ditino, cosa vuoi dire? Ho paura. Nessuna paura. Voglio dire che questa è una storia antica, quella dell'incontro tanto atteso tra il patriarcato e il papato. E l'elemento fondamentale sarà il riconoscimento nell'Eucaristia della memoria del martirio, perché, ricordiamolo, la Russia, nell'età a noi più vicina, è la terra che più di ogni altro ha offerto il sacrificio ai cristiani. Questo mi pare giusto. Sai di quant'è Giovanni Minoli, caro Pietrangelo Buttafuoco? Sapete di quant'è il budget del 2014 dell'Unione Europea? Quanto? Ieri abbiamo analizzato il budget della Camera, adesso siamo sull'Unione Europea. 135 miliardi di euro, 135 miliardi di euro. Hanno raggiunto l'accordo, come sapete, fortemente contestato però da inglesi e tedeschi. Lì si trattano bene, no? Gli eurocrati. Sì. Però noi ci consoliamo con... meno Stato, meno burocrazia e soprattutto meno tasse. Era lui, dannata però. Il problema è che lui non è più così. Però noi abbiamo un salvataggio sicuro. Dove? In Cina. Sapete chi dice più mercato e meno Stato? Il Partito Comunista Cinese. È la loro nuova dottrina. I cinesi come Berlusconi. No, meglio, perché quelli lo fanno. Scusate, posso fare un doppio spot? Prego. Uno spot per noi di Mix24 e uno spot per il Foglio, che da oggi pubblica il saggio di Guarino, Un golpe di nome Euro. Che fu intervistato... con quale abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, e tornerà da noi perché è veramente un grande, un uomo libero di pensiero. Giovanni, do you remember? Oh, questo ci mette una grande allegria, anche se ricordare Enzo Tortora, noi lo facciamo stamattina per una cosa seria. C'è questa polemica che secondo me è interessante dal punto di vista del costume nazionale, non solo, sul docufilm del quello su Enzo Tortora, appunto. Prima non è stato proiettato al Filmfest di Roma, poi la Rai non l'ha voluto, Mediaset. Ma Giovanni, perché secondo te? Ah, questo io non lo so. Noi lo replichiamo oggi perché ce l'hanno chiesto i nostri radioascoltatori e perché è un tributo giusto. E così siamo sicuri di fare servizio pubblico. Perché è incredibile. Buttafuoco, tu hai niente da dire lì? Riguardo al... A Tortora. Io dico questo, che molto spesso tanti mascalzoni hanno utilizzato la tragedia di Tortora per farsene scudo e per avvelenare quella che è invece una necessità per la civiltà giuridica di questa Italia, per avvelenare la necessità di sposare la causa garantista. E quindi bisogna salvare Tortora dai suoi carnefici, ma soprattutto salvarlo da chi, coi posteri, scherza mistificando il suo martirio. E noi infatti lo ricordiamo, allora, ricordiamo lui e la sua storia. Non ci sono dubbi. Un'ultima cosa, spiagge private, no? Ma cosa volete che gli rimporti? A chi va da Piero, a Forte dei Marmi, al Twig, al Gambrinus, a Ostia, pane e pomodoro a Bari. Vamos alla playa! Mix 24. Mario, hai un aggiornamento? Sì, Cicchito consiglia, Fabrizio ovviamente, parliamo di PDL, consiglia certo. di annullare il Consiglio nazionale previsto per sabato. Quindi diciamo la lotta sta diventando caldissima. Domani ne parleremo. Perché ha visto l'ordine del giorno. Lo dici com'è? L'ordine del giorno è relazione del Presidente... Voto. Applausi. Voto. Applausi. No, che voto, applausi. Se vuoi ti do anche un buon anni che ho appena ci uscito. Ci potrebbero essere 101 anche lì se sono gli applausi. No, sempre per le parole d'ordine e gli slogan. Vabbè, Raffaele Bonanni, leader della CISL, segretario CISL, che dice non ci serve Brodino ma terapia shock. Io francamente non so più che cosa pensare in generale. 800 24 0024 349 238 6666 per parlare un attimo di televisione, dov'era il canone ieri sera, Mario, per te? Guarda, io sono impegnato nella lettura, poi capirai perché, tra qualche giorno, del Faust di Goethe. Va bene. E tu, Pietrangelo, io... per carità, stavi al cinema? No. Ho visto uno spot, era bellissimo, con Scarlett Johansson, era veramente... con molto charme, con quel passo, però non riuscivo a capire cosa fosse lo spot, perché c'era qualcosa che mi diceva ma chi è, poi l'ho capito. Ah, sì. Concita De Gregori, identica. Identica. Meglio. Senti, meglio. Oggi raccontiamo una sezione speciale del Festival del Cinema di Roma, quella dedicata ai documentari. Romano Montesarchio in concorso al Festival col documentario Ritratti abusivi. Di che cosa si tratta? Allora, Ritratti abusivi è il racconto di una periferia italiana del sud Italia, è un po' diciamo quel luogo che ho deciso di raccontare, l'emblema di tante problematiche del nostro sud. Sostanzialmente racconta un parco ad uso abitativo che è costituito da una ventina di palazzine, tre piani, fronte mare. Vabbè, quindi è una situazione molto, diciamo, molto tipica per certi versi, no? Sì, molto tipica di tanta costa italiana, con la differenza però che ad esempio questo parco, il Parco Saraceno in particolare, è stato edificato alla fine degli anni 60 su terreno demaniale, abusivamente. Perfetto, come tanti altri. Ecco, come nasce la sua passione, la tua passione per il documentario? Ma sostanzialmente la mia passione per il documentario nasce tanti anni fa, avendo studiato fondamentalmente cinema, come tanti giovani, uno sogna appunto di fare il film e intanto comincia a fare dei documentari. Sì, anche se da subito mi sono appassionato appunto di questa tipologia che poi... È molto bella, è molto appassionante in realtà. Sì, è anche... diciamo il genere nativo del cinema, esatto. Il cinema è nato col documentario. Senti, ma perché hai scelto Parco Saraceno? Proprio perché ha questa tipicità diffusa nel sud, in un certo senso? Ha questa tipicità diffusa, però al tempo stesso ha delle peculiarità uniche, cioè nel senso che quel luogo è vero che è nato abusivo, poi è stato abbandonato, ma è stato sostanzialmente abitato inizialmente dai militari della NATO, che quando hanno saputo che era abusivo sono andati via, curato il parco, e poi è stato di nuovo rioccupato abusivamente da abitanti abusivi. Ecco, quindi, ma abuso su abuso, ed era una peculiarità. È diventato abuso più abuso, è diventato normale, diciamo. Ma com'è possibile che in qualche modo questi territori continuano a essere così periferie del mondo? È un fatto di ignoranza, di mancanza di cultura, di cosa? Fondamentalmente credo sia una cosa molto semplice: mancanza di attenzione da parte dello Stato. Sì. Cioè, quel luogo che per tanto tempo è stato anche una delle roccaforti. Ma forse più che dello Stato, anche proprio delle istituzioni, perché lì non è un problema di Stato, è proprio il problema di amministrazioni locali anche. Sì, assolutamente. Entrambi i casi, anche se quel posto comunque è stato officiato, diciamo così, in alcune celebrazioni da quelli che erano allora Presidente della Regione, quando fu edificato la prima pietra, la posa della prima pietra di quel posto fu fatta dall'allora Ministro Giacinto Bosco, in cui lo Stato c'era, poi le amministrazioni locali hanno fatto il resto. Senti, si sta muovendo, per me chi fa documentari è quasi un eroe, perché è molto difficile l'impegno, cercare finanziamenti, eccetera. Oggi si sta muovendo qualcosa in favore dei documentari o siamo sempre lì a appietire una possibilità? Diciamo che sembrerebbe qualche segnale c'è, sicuramente il film ad esempio che ha vinto Venezia, Sacro Graal, certo, è un segnale forte, certo, non c'è però dubbio. Ad esempio vedo che in tanti festival in giro per il mondo, si anche comincia. In Italia, cominciano a essere appunto spazi dedicati ai documentari, con grande attenzione. Ecco, quindi speriamo che sia una cosa che cresce, perché davvero, come dicevi giustamente te, è qualcosa che sta all'inizio di ogni forma di racconto. E che cosa ti aspetti, per chiudere, da questo festival? Ma da questo festival mi aspetto che dia, appunto, per quanto mi riguarda, l'attenzione dovuta appunto a una categoria, quella dei documentari, ma soprattutto che ci faccia vedere bei film, insomma, che non sia poi soprattutto solo il Festival di Venezia a proporre il cinema con la C maiuscola in Italia, ma ci sia anche Roma, che giustamente è stata per anni la capitale del cinema, quindi merita anche lei un festival che sia adeguato. Ecco, speriamo che questo augurio vada a buon porto e intanto tanti auguri per il tuo documentario. Grazie. Grazie. Ecco, dopo il giornale radio andrà in onda, curata come sempre da Marina Milone, la replica, perché ci è stata richiesta molto dai nostri ascoltatori e poi perché ci sono le polemiche di cui parlava Mario Secchi, la storia drammatica della vicenda umana e giudiziaria di Enzo Tortora.